Adesso facciamo una cosa che, boh, sì, insomma, non sempre facciamo, ed è quella di entrare nei palazzi che contano dell'Unione Europea, però lo facciamo dandovi una dritta, speriamo utile, per entrare in questi palazzi da protagonisti. La Commissione Europea infatti ha lanciato la procedura per assumere nuovi funzionari, e lo si può fare utilizzando il sito dell'EPSO, che è l'ufficio europeo di selezione del personale, per capire intanto cosa fa un funzionario europeo e soprattutto che caratteristiche bisogna avere per così aspirare a questo ruolo. E soprattutto andiamo a scoprire passo per passo quella che è la procedura, e abbiamo invitato Angele Berembischi, che è l'addetto alle relazioni con i media per la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ben ritrovato, Angele, ciao. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli amici dell'Altra Europa. Grazie. Allora, facciamo intanto un identikit del funzionario dell'Unione Europea. Chi è? Cosa fa? È una figura un po' mitologica, nel senso che se ne sente parlare tantissimo ogni tanto, no? Salta fuori la dicitura funzionario dell'Unione, funzionario della Commissione. Chi è? Cosa fa? Chi può diventarlo? Beh, sicuramente funzionario dell'Unione Europea è una persona che intanto è aperta a una vita e un lavoro in un ambito multiculturale. Questa è la cosa, diciamo, che contraddistingue, come del resto il lavoro in tutte le istituzioni internazionali. Qui siamo in presenza di 27 paesi membri, quindi un funzionario dell'Unione Europea si troverà inevitabilmente a lavorare con rappresentanti di 27 paesi diversi, che significa lavorare in un contesto di multilinguismo, di multiculturalismo anche. Deve essere pronto ovviamente a sfide importanti, soprattutto in questo momento. Sappiamo che l'Unione Europea è impegnata in una strategia molto importante per combattere la crisi, certo. Ma ci sono anche altri aspetti che, per esempio, dipendono anche dalle azioni, dalle politiche che l'Unione Europea sta svolgendo in vari campi, come per esempio le politiche strutturali, i trasporti, la giustizia, gli affari interni, insomma, quindi non... Ce n'è da scegliere, ecco. Ce n'è per tutti i gusti quasi. Allora, si tratta della terza procedura annuale di selezione dei candidati più idonei, quindi vuol dire che c'è comunque anche un turnover, comunque c'è spesso... Esattamente, la terza perché, non perché è la terza volta che si fa un concorso per accedere alle istituzioni europee. Ovviamente da quando esistono le istituzioni europee esistono anche i concorsi. La terza perché a partire dal 2010 c'è stato un importante cambiamento nella politica di selezione del personale di assunzioni da parte delle istituzioni europee, da parte dell'ufficio di selezione del personale. Le novità consistono soprattutto in una tabella di marcia appunto molto precisa, quindi noi siamo in presenza adesso di tre grandi campagne di selezione che riguardano appunto i laureati, quindi i funzionari amministratori, come li chiamiamo noi nel gergo delle istituzioni, che è appunto quello di cui stiamo parlando ora. Poi c'è anche una grande campagna per linguisti, quindi tutta una serie di lavori con le lingue, da traduzione all'interpretariato e via dicendo. E una grande campagna annuale sempre per assistenti, che è un'altra categoria di funzionari. Un'altra importante novità per quanto riguarda la selezione è la durata, quella cosa che a molti, forse che hanno partecipato come sottoscritto, sì, in precedente ai concorsi, è apparsa abbastanza lunga. Per esempio si arrivava addirittura per i grandi concorsi a 2 anni di intera durata dal momento di presentazione della candidatura al finale, e quindi Adesso le procedure, nella peggiore delle ipotesi, quindi nei concorsi appunto più complessi come questo, durano fino a 9 mesi, ecco, quindi abbiamo accorciato molti tempi. Perfetto, quindi insomma il sito, diciamo, europa.eu/epso è il sito europeo di selezione del personale. La procedura consiste in un test che mira a valutare la capacità di ragionamento verbale, numerico e astratto del candidato, poi dopo ci sono anche delle prove, diciamo, di così problem solving, quindi ci sono proprio delle una sorta di messa in prova sul campo. Angel, secondo te qual è la caratteristica principale che bisogna avere per candidarsi? L'elasticità, la flessibilità, la voglia di viaggiare, la voglia di pensare anche in altre lingue? Sicuramente sì, tutte quante. Bisogna essere proiettati a un lavoro appunto complesso che richiede diverse conoscenze in vari settori. Prima il concorso, e questo è un'altra differenza rispetto al passato, prima il concorso si basava soprattutto sulla conoscenza, ora quello che tu hai elencato come prove, come percorso da superare per poter accedere alle istituzioni europee, mira a valutare la capacità proprio di un candidato di far fronte a una serie di problemi che nascono nel lavoro, di analizzarli bene, di potersi esprimere anche, di poter comunicare sia nei confronti dei propri colleghi sia all'esterno, certo, in maniera precisa, in maniera efficace, e ovviamente di essere appunto in grado di agire, assolvere questi compiti anche viaggiando molto spesso, certo, e anche spostandosi addirittura per motivi di lavoro, andando a lavorare in un altro paese. Ok, comunque ecco, per i selezionati il futuro è quello in giacca e cravatta comunque. Non necessariamente. Ok, va bene, così ci stavamo facendo l'immagine di questi funzionari. Grazie davvero, Angel. Va bene il sito che abbiamo dato, è il punto di riferimento corretto, no? europa.eu/epso. Sì, esiste anche la versione più semplice, www.epso.eu.